Onorevole Berlinguer, insomma il PD tiene e il PDL non sfonda. Ecco, lei è bravissima, guardi, proprio una sintesi perfetta. Il PD tiene, il PDL non sfonda e dinamicamente la eventuale ripresa, che io credo che sia reale, di questi ultimi settimane e giorni indica che potrebbe continuare anche dopo e che quindi noi possiamo affrontare successivamente un congresso serenamente, non per dividerci, ma per approfondire la discussione in modo libero, con un atteggiamento unitario. Ma questo premia un po' l'ex Margherita rispetto ai DS? Beh, questo forse si vedrà un pochettino anche nelle preferenze delle europee, qual è la forza. Io credo che se si continua a ragionare in questo modo si coglie poco la dinamica. C'è una divisione fra gli ex Margherita e i DS, c'è una divisione all'interno di DS fra l'uno e l'altro, divisioni ce ne sono, però non sono queste le linee di demarcazione, perché sul territorio io ho visto che l'Ulivo ha radicato. Senta, ma hanno pesato gli scandali del Premier? Sì, tutti erano convinti che gli scandali e il gossip lo avrebbero favorito, perché l'Italia è un paese pettegolo, maschilista, divertito. L'UDC si è sicuramente ingrassata un po' da questo, il che vuol dire che qualche parte di quel voto cattolico, e secondo me anche noi. Insomma, alla fine vince la sobrietà. Alla fine ancora non ha vinto. Non vorrei apparire trionfalista, ancora non ha vinto, però non paga la volgarità.